Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, dalla postazione Radio 24 a Montecitorio, ore decisive per l'elezione del Capo dello Stato. Vi ricordo che potete mandarci un sms al 349-238-6666. E buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito, in corso qui a Montecitorio il quarto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato, quarto scrutinio per il quale occorre la maggioranza assoluta di 504 voti, il quorum si è abbassato, il candidato del centro-sinistra è Romano Prodi, un PD ricordato. Compattato sembra insieme con Sel, ma qualcuno parla sempre di franchi tiratori, questa volta di area dalemiana. Smentisce tutto Marina Sereni, sentiamo. L'assemblea di questa mattina è stata molto chiara, un grande applauso ha accolto la proposta di Bersani di votare Romano Prodi come un candidato autorevole, in grado di garantire all'estero grande credibilità dell'Italia e all'interno di essere punto di riferimento e di garanzia. Il fatto di non essere riusciti a condividere con tutto il Parlamento questa candidatura ovviamente ci spinge a rassicurare chi dice che è una candidatura di rottura. Prodi dimostrerà di saper essere garante delle istituzioni, dell'unità nazionale, della coesione nazionale. Ma perché il PDL e la Lega scelgono di votare scheda bianca al quarto scrutinio? Per far venire fuori i franchi tiratori del PD? Ma la proposta è del PD. Non pensiamo che ci siano problemi all'interno del Partito Democratico. Pensiamo anzi che da adesso in poi questa candidatura possa essere concretamente quella che siederà al Colle. Il diavolo veste Prodi, l'Italia diventerà il suo inferno, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Il Popolo della Libertà e la Lega non partecipano al voto, lo abbiamo già ricordato, contestano la candidatura di Romano Prodi. Per Silvio Berlusconi il voto non è democratico né limpido. Dinanzi a questa situazione il Cavaliere ha invitato i deputati e senatori PDL e anche gli altri parlamentari e rappresentanti regionali della coalizione a non partecipare al voto in questa quarta votazione, ma in realtà si parla anche di un PDL pronto a stanare i franchi tiratori del centro-sinistra. Sentiamo allora Maurizio Gasparri. Non partecipiamo al voto perché riteniamo che sia molto grave che il Partito Democratico abbia offerto una serie di nomi, abbia cercato un'intesa. Ieri c'è stata la proposta di Marini, noi l'abbiamo votato, il Partito Democratico in larga parte non lo ha sostenuto, la scelta di Prodi è una scelta divisiva e quindi noi non partecipiamo al voto anche per evidenziare questo atteggiamento di inaffidabilità del Partito Democratico. Vedremo adesso cosa accadrà, il quorum cambia come è noto nella quarta votazione. E noi riteniamo che una via di condivisione sarebbe la più saggia per il paese. Una via di divisione non facilita la vita delle istituzioni in un momento così grave e delicato per l'Italia. Ecco, ma guardando i numeri sembra che Prodi anche oggi non ce la possa fare. Quindi a quel punto... Siamo prudenti nelle previsioni, guardi. Un vostro nome? Il Partito Democratico non può scaricare sulla pelle del paese il proprio congresso e le proprie lacerazioni. Io non so se Prodi ce la farà o meno. Noi, non partecipando al voto, certamente facciamo ben capire che non è Prodi il Presidente della Repubblica che noi immaginiamo. Se dovesse poi fallire questo tentativo, il PD si assumerebbe un'ulteriore responsabilità nei confronti dell'Italia, perché invece di seguire una scelta condivisa, ripeto, stanno tenendo sotto scacco il paese da 50 giorni celebrando un infinito congresso, non se ne può più, è un atteggiamento gravissimo. Ci siamo incontrati con Scelta Civica, c'è un rapporto di dialogo e apprezziamo il tentativo che loro stanno facendo di non assecondare iniziative divisive come quelle che ha assunto il Partito Democratico. E abbiamo sentito Maurizio Gasparri, intanto i vostri sms, è possibile che gli italiani debbano bersi sempre gli stessi Brodi? Claudio da Trento, invece Federico dice per fortuna hanno ripiegato su Prodi, non volevo il governo col PD, Mortadella stai a casa che è meglio. A proposito, e qui parliamo di Lega, Gramazio, Domenico Gramazio ha mangiato poi il panino con la mortadella anche qui a Montecitorio, in piazza Montecitorio, come ha fatto nel 2008 alla caduta del governo Prodi. Una quarta votazione, Vincenzo, sul sul filo di lana perché occorrono 504 voti, ma il centro-sinistra insieme ne ha 496. Se Prodi dovesse averli tutti, probabilmente il PD lo ripresenterà domani, ma se mancassero 30 voti allora si aprirebbe di nuovo un problema all'interno del Partito Democratico. Abbiamo sentito la Lega mangia la mortadella in piazza e sentiamo cosa ci dice il governatore del Veneto Luca Zaia. Noi non ci prestiamo a questi giochi, abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità dalla prima elezione rinunciando al nostro candidato che era Manuela Dal Lago e sostenendo su una proposta Bersani-Berlusconi Franco Marini. Oggi Bersani ci fa svegliare all'alba con questa sorpresa dicendo io ho il candidato ed è Prodi e abbiamo i voti e vediamo se ce li ha questi voti. Come si esce da questo stallo? Ma guardi, mi metto nei panni di tantissimi cittadini che conoscono la disoccupazione, la morsa della crisi e vorrebbero un presidente eletto velocemente. Per eleggere un presidente velocemente bisogna avere un'intesa generale dove tutti noi facciamo la nostra parte. Non ci sono cose da portare a casa. La verità è che un buon presidente eletto quasi all'unanimità ci permetterebbe di pensare anche a un buon governo che sia di larga intesa. Noi avevamo accettato una proposta che è stata fatta ieri, che sono solo 20 ore fa, 12 ore fa, che si chiamava Franco Marini. Ha trovato assolutamente rispondenza all'unanimità da parte della Lega, da parte di PDL e da parte del PD. Il problema ho l'impressione che non sia nostro, il problema è degli altri che si debbono mettere d'accordo. Tanto è vero che oggi, con la votazione di oggi, la quarta alla quale non partecipiamo, dovremmo rilevare ancora una volta che il PD non è compatto nel votare il suo candidato. Certo è che noi Prodi non lo voteremo mai, sto parlando di noi come Lega. E ora di ascoltatori ci scrive il Prodi della liquidazione dell'IRI, l'agente del KGB, il medium di Gradoli. Attenzione che poi ci dicono che diamo solo i messaggi negativi nei confronti di Prodi. Vincenzo. Sì, invece ce ne sono diversi a favore del professore, ma chi è in aula? In questo momento è Lista Civica, la scelta civica che sta votando e sta votando per Anna Maria Cancellieri. Sentiamola allora da Mario Monti il perché di questa scelta. Perché Anna Maria Cancellieri? Perché ci sembra che risponda a quelle caratteristiche che piacciono ai cittadini e quindi possa raccogliere il favore degli italiani. Non è un rappresentante della vecchia politica, per la verità non è un rappresentante della politica, non fa parte di nessun partito, non ha mai fatto parte di partiti. È un servitore dello Stato, indipendente e molto autorevole. E questo era Mario Monti, ma il Movimento 5 Stelle continua a proporre Stefano Rodotà. Sentiamo Alfonso Bonafede. Il Movimento 5 Stelle continuerà a votare Rodotà. Rodotà ha semplicemente chiarito una posizione di rispetto nei confronti della nostra volontà. Ha voluto chiarire che lui non voleva essere d'ostacolo a nessuna scelta eventualmente diversa del 5 Stelle. Il 5 Stelle gli ha chiarito che per noi non c'era altra scelta. Non riusciamo ancora a comprendere le ragioni del no da parte del PD. Ecco, l'unica motivazione che ci sembra di capire è che è un candidato proposto dal Movimento 5 Stelle. Questa è strategia politica fine a se stessa. In Italia non c'è più spazio e tempo per strategie politiche fine a se stesse e la gente non le comprende più. Senta, ma qualora invece Rodotà si ritirasse, eccetera, voi Prodi però l'avete votato, il Movimento 5 Stelle l'ha votato alle Quirinarie online. Noi non siamo abituati a prendere in considerazione ipotesi astratte, non c'è alcun motivo per cambiare opinione, ripeto, non vogliamo stare su una linea di dialogo che sia no perché lo hai proposto tu oppure non lo dovevi fare come primo nome perché il primo nome viene bruciato. Questi sono discorsi che gli italiani non vogliono ascoltare più. Queste le parole di Bonafede del Movimento 5 Stelle, un ascoltatore risponde al governatore Zaia che auspica ancora un nome come Marini e dice Marini tienitelo, ricordiamo che siamo alla terza votazione in aula e si andrà probabilmente alla quinta votazione domani mattina. Domani mattina e un radioascoltatore ha detto meglio di tutti era la Gabbanelli, allora io vi ringrazio e un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.